Oggi è il 26 luglio del 2023, prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30 e il palinsesto prevede 25 o'clock. Dopo questo spazio musicale dedicato all'elettronica, all'industrial, alla sperimentazione in genere, all'ambient, al noise. 0649 1750, il nostro storico contatto telefonico, www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Ricordo ovviamente le varie possibilità di sottoscrizione per questa radio, autogestita ormai da lontano 1977, ci sono modalità elettroniche o meno. E quindi prima di iniziare vado a salutare Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, Doriana Panico a Taranto, un saluto a Tabula Rasa, Ernesto Brusati, Panico da palcoscenico. A Bergamo Francesco Cornello, vado a salutare anche Omicidio, che ci ascolteremo anche questa sera in trasmissione. Un saluto dunque a Anton Zoviet. Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, un saluto a Lupsi, Lucia Cagliazza, Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project. Audio Chaos con Simone Scalise, in Sardegna c'è Nicola Locci, Anna qui a Roma, Venusia Zozzetta Stramonio, fedelissima di Cuppio Dissolvi, anche lei in lista questa sera. A Roma abbiamo anche lo storico ambient di Stefano Diserio, in arte Like Wake. Saluto Gianluca Becuzzi. Sara Capò Fontana, di Progetto Non È. Come avrete letto, ci ha lasciato anche Sinéad O'Connor proprio oggi, che fu un personaggio di caratura importante negli anni 80 e 90. Una notevole voce e collaborazioni anche importanti, Massive Attack e tanti altri. Ricordo che oggi sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione 2022-2023 e quindi ci si aggiornerà a settembre. Anche se anche il settembre sarà un po' frastagliato, vedremo. Allora, noi andiamo ad iniziare dopo questa lunga serie di saluti e lo facciamo con un personaggio, credo tra i migliori artisti accasati presso la Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella. Naturalmente la musica attraverso le compilation e tutti gli artisti proposti da questo agitatore culturale napoletano sono di estremo valore, ma io ho un debole personalmente per Michael Bonaventure. E di lui è uscito un compendio che raccoglie materiale che va dal 2018 al 2023, si chiama appunto Works 2018-2023 e quindi Cominciamo a conoscerlo in questa ultima puntata di luglio con Omega e Focus One. l'incredibile gamma di variazioni che ha l'organo suonato da Michael Bonaventure, che nasce proprio come maestro e suonatore di organo, per poi intraprendere un'evoluzione nella musica sperimentale e contemporanea, anche con influenze, e l'abbiamo percepita in Focus One, per esempio con le avanguardie degli anni 70, tipo Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, eccetera, eccetera. Personalmente, uno tra i miei artisti preferiti della lunga schiera di talenti che ci ha fatto conoscere, Raffaele Pezzella. Michael Bonaventure, che saluto perché all'ascolto, ha anche collaborato con la presente Lucia Cagliazza, con lo stesso Raffaele e tanti altri. Questi lavori dunque, Works 2018-2023, che vi consiglio caldamente, e si trova sulla pagina Bandcamp della Nice Play Sounds Group Label. Saluto Maria D'Agostini e Arianna Degni Lombardo insieme a Flavio Derbecante per Noise Cluster. Do ragione ad Anton Zoviet sul fatto che ci sia anche un'influenza di Nars Whitwound. Saluto anche Eugen Vintras di Gin. Tornando a Becuzzi, di Becuzzi, quando torneremo in settembre, ci andremo a godere We Can Be Everywhere in una edizione appunto riveduta e corretta, uscita nel 2023, e credo di aver capito che sia anche imminente un altro lavoro che magari uscirà sul finire di questo anno. E arriviamo appunto in Italia salutando Michael Bonaventure, e lo facciamo con New Procession Order. Il nucleo principale è composto da Alessandro Papa, Marcello Fraioli, conosciuto come Einsof, e Gloria Bazzocchi, e poi intorno ruotano una serie di interessanti collaboratori. Questo lavoro è uscito il 1 giugno, quindi molto recente. E si vanno ad alternare tracce più ritualistico-sacrali ad altre più elettroniche, quasi in odor di Claude Vivier. Ci ascoltiamo Tempas e Cari Cuccioli. Ero lì, nascosta nel buio, e vi guardavo giocare. Nascosta nel buio come una carogna, come una spia, come un ladro. Io vi guardavo ammutolita, intenerita da voi, cari cuccioli della mia specie, e poi anche disgustata da voi che eravate lì, inermi, a un palmo dal mio naso. Siete indeboliti, cuccioli. Siete spaventati e soli. Siete avidi, siete sazi. Siete svuotati, sfiniti siete. Siete vinti. Io vi guardavo da una quasi nausea. Ricordavo un'antica infelicità d'infanzia. Un'antica paura. Ricordavo bene quell'essere tra gli altri, spersa, sola. La mia paura me la ricordavo guardando la vostra. Ricordavo bene il mio sguardo, come se l'avessi sempre visto da fuori. Sbigottito. Quasi non ci credevo di essere in questo mondo. Non me lo spiegavo il mondo, non mi raccapezzavo. Come precipitata ero, dalle altezze caduta molto giù, molto di lato, nel mondo degli uomini e delle donne, nel mondo delle case di mattone, nel mondo dove si lavora e si mangia e si dorme e si mangia e si dorme e ci si lava la faccia. Siete spaventati e soli. Siete avidi, siete sazi. Siete svuotati, sfiniti siete. Siete vinti. Quest'ultima voce era quella di Gloria Bazzocchi. In questo And Now the Judgment, New Process and Order, ultimo lavoro. Pieno di spirito sciamanico, un qualcosa di iniziatico, pervade tutte le tracce di questo bellissimo lavoro uscito proprio, come ho già detto, un mese e mezzo fa. Anche a settembre avremo un ulteriore passaggio di questo ottimo lavoro. Tra molti artisti scomparsi anche recentemente c'è Monte Casazza, artista italo-americano, vera e propria eminenza grigia della scena industrial degli anni 70, 80, 90, eccetera, fino ai giorni nostri. E quindi da un po' di tempo stiamo tributando un omaggio a lui, e lo facciamo usando questa compilation del 1992, The Worst of Monte Casazza. E questa sera ho scelto First Last con anche le collaborazioni di Chris Carter, Genesis P. Orridge e Peter Christofferson, e poi Stairway to Hell. You want to be first. Don't want to be last. Don't want to be last. You want to be first. You want to be first. Don't want to be last. Don't want to be last. First. First. Last. Last. Last. Last. Last. First. First. First. Last. Last. Last. Last. Don't wanna be first. Don't wanna be last. Don't wanna be last. Don't wanna be last. Don't wanna be last. Don't wanna be last. Don't wanna be last. vera e propria tempesta neuronale, qualcosa di lisergico e sperimentale che caratterizza tutta la produzione di Monte Casazza, sia quella inserita in questo The Worst of Monte Casazza, una fondamentale compilation, sia gli album stessi, che in fondo non sono stati tantissimi. Morto purtroppo recentemente anche lui, e qui lo abbiamo ripreso con queste collaborazioni prestigiose con Throbbing Gristle. Saluto Wurnus Aylin, l'ottimo industrial piemontese. Torniamo in Italia. E lo facciamo con il già menzionato omicidio di Antonio Zoviet. Nel suo interessantissimo profilo Bandcamp si può anche trovare un'opera recentissima dal nome Frequenze di morte, diviso tra suggestioni death ambient e industrial noise di scuola Atrax Morgue. E credo che Omicidio sia proprio tra quelli che hanno in qualche modo ripreso al meglio la tradizione di Marco Corbelli. Ci ascoltiamo Frequenza numero 1. Ritengo che omicidio sia una delle migliori espressioni gli ultimi anni per quanto riguarda questo tipo di sonorità, che come ho già detto prendono spunto dall'esperienza importantissima di Atrax Morgue e quindi di Marco Corbelli e tutto il giro della Slaughter Productions. Frequenza di morte, dunque omicidio. Vi esorto dunque ad andare sul profilo Bandcamp di omicidio, ci sono veramente dei gioiellini, in parte anche scaricabili in free download. Altra storia importante è quella di Cupio Dissolvi e quindi chiamo in causa Venusia Zozzetta Stramonio, ormai fedelissima di questi spazi del sottoscritto. E nel vasto materiale che ho potuto reperire anche grazie a lei ci andremo ad ascoltare Necroguardia, Neurolocausti e Paramnesia. Yeah. Scalpore.